un'inchiesta al Centro per Immigrati di Bologna, inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, dove in base ad alcune denunce di immigrati vi è ragionevole dubbio che siano stati forniti dei calmanti al di là delle prescrizioni richieste dagli immigrati. Anche su Ponte Galeria, così come sugli altri centri, questa preoccupazione è molto forte, non solo perché vi è questo dossier presentato da Medici Senza Frontieri che dice che è un metodo generalizzato, ma anche perché a volte riceviamo diverse segnalazioni su una situazione non più tollerabile per la dignità umana e per la salute di questi immigrati, che io voglio ricordarlo, sono nei centri non perché hanno commesso un reato, ma perché hanno compiuto un'illegittimità amministrativa non avendo il permesso di soggiorno in regola per stare nel nostro paese. Centri per immigrati che devono essere chiusi, questo è il senso anche dell'iniziativa che vedrà domani manifestazioni in diverse città italiane, da Roma a Bologna, a Torino, a Crotone, e anche delle visite di ispezione che stiamo facendo un po' in tutti i centri, da quello di Ponte Galeria a quello di Bologna, a quello di Brunelleschi di Torino, che è anch'essa al centro di numerose denunce e inchieste da parte del tavolo migranti.